programma. Inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Che paese è questo? Vi stavo chiedendo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, che paese è questo dove ogni giorno se ne conta una, dove le cose si ripetono, ritornano, non sono ancora certe, tante rimangono dei misteri. Mi chiedevo che paese è questo dove, se ti viene in mente di alzare un sasso, sotto trovi le vipere, lombrichi, bruchi, qualcosa di marcio, sempre, dove c'è una classe politica, non tutta, ma in buona parte decisamente corrotta. Ogni giorno uno scandalo diverso, e più scavi e più trovi marciume. E un paese dove si scopre anche che, cosa di ieri, di questi giorni, che una ragazza che è scomparsa quasi 30 anni fa, è scomparsa anche con il contributo di un monsignore, così come era successo per Elisa Claps a Potenza, in Basilicata. Un paese dove ci sono attentati, ancora si parla di terrorismo, ogni tanto saltano fuori queste cose vecchie delle BR, nuove di chissà quali gruppuscoli smandrappati, che comunque non smettono, insomma, di coltivare questi sogni di chissà quale eversione. E poi dove succede? Si sveglia un sabato mattina e sembra che tutto sia abbastanza nella routine, a parte i femminicidi naturalmente che continuano. E poi a Brindisi avete sentito questo ordigno che è scoppiato vicino a una scuola di ragazze, di ragazzine. Una è morta di 16 anni, ce ne sono altre ricoverate, una molto grave. La ministra Cancellieri dell'Interno dice: non è un tipico atto di mafia, lo Stato c'è, ma vedremo un po'. Ci sono ancora tante cose da appurare. Ma che paese è? Mi chiedevo, e vorrei appunto porvi questa domanda dall'inizio. Il numero verde è sempre quello, 800 24 0024. Quindi commenteremo un po' tutte le notizie della settimana, gli scandali che proseguono, l'ex Margherita con il tesoriere, ex tesoriere Lusi, ma anche la Lega. Finalmente si conferma che Bossi sapeva. Era un po' surreale pensare che non sapesse di quello che avveniva. Insomma, il numero a vostra disposizione, le idee fatele concentrare sulle notizie di questi giorni, in particolare anche appunto di raccontarci che paese è, con tante virtù, per carità, ma anche dei vizi beceri e orrifici che rispuntano fuori qua e là. E quindi le notizie un pochino così ve l'ho già riassunte brevemente. Se volete andiamo anche a vedere, naturalmente si parla la crisi che c'è sempre, c'è stato il G8, Monti che dice, presidente del Consiglio, che comunque insomma l'Italia ha le carte in regola per la crescita, speriamo che l'abbia carte in regola in generale, insomma, e abbia i suoi anticorpi. Poi anche l'FMI, il Fondo Monetario Internazionale, ha detto che l'Italia sta facendo dei enormi progressi, ma speriamo che sia così. Lo scandalo Lega che citavo prima, la crisi greca, la Grecia resta o esce dall'euro, ancora non si sa, la Francia che ha, sta varando il suo governo per la metà fatto di donne, e poi abbiamo detto appunto anche il caso Orlandi De Pedis, una storia pazzesca, tipicamente italiana, di questi misteri, no? Vediamo se almeno questo un po' si riesce un po' più a chiarire. Poi se vogliamo metterci anche un pezzo della nostra cultura pop che se ne va con la morte di Donna Summer. Ma adesso vorrei dire, mettere una nota di leggerezza, anche confermando perché effettivamente non ci sono più le mezze stagioni anche questa settimana. Non ci saranno più le mezze stagioni, ma neanche le intere. Sono un granché. Sento i grilli quando vado a correre nel parco, che sia la mattina, che sia anche mezzogiorno. I grilli. Prima si sentivano per esempio le cicale soltanto al mare, nelle pinete, poi si sono cominciate a sentire anche in città metropolitane come Milano. Adesso ci sono i grilli, ma i grilli di solito si sentono la sera in luoghi così un po' agresti, invece si sentono anche in città la mattina, non si capisce più niente, insomma, meno male qualcosa cambia, qualcosa resta uguale, delle cose che restano uguali ne abbiamo appena parlato. Quindi non andrò ulteriormente avanti, siate voi invece sulle notizie della settimana, e tra pochi istanti anche l'opinionista estemporaneo di oggi, che è, signore e signori, Oliviero Bea. Sì, ci sono. Era un fischio quello di prima, era una specie di... Sono qua. No, ah no, un cane in lontananza. Sì, ci sono i cani, sono i grilli, anche nelle urne pare, ma insomma, vabbè, quello è anche un altro paio di maniche. Sì, brutto paese, hai ragione, brutto paese con un buco dentro e con un sabato infernale per una ragazza che muore così a 16 anni, una strage evitata però con un puro caso, perché insomma le condizioni per una strage con gli altri studenti che stavano arrivando c'erano tutte, il rischio che non si capisca nulla nemmeno questa volta, il dolore che c'è, se quella ragazza di 16 anni fosse stata messa sotto da una macchina sarebbe morta comunque tragicamente a 16 anni, ma non staremo a interrogarci sull'identità di una nazione, su che cosa vogliamo, su qual è la scala di valori, su quello che ci manca. Invece dobbiamo farlo, perché questo discorso sulla crisi economica del paese che riassume tutte le altre non è sufficiente. La crisi economica c'è, è forte, ma un discorso che si limiti all'economia, alla mancanza di lavoro e a tutti questi problemi, che peraltro naturalmente sono drammaticamente seri, non ci renderebbe ragione. Questo è un paese che sta andando indietro, si sta imbarbarendo in termini culturali, e l'aggettivo può sembrare, come dire, lontano, invece è vicino, perché riguarda la nostra vita di tutti i giorni, riguarda appunto quello che abbiamo in testa, che abbiamo nel cuore, che abbiamo nel fegato. È un paese malato. E tra l'altro capita proprio, possiamo dire, per pura coincidenza, poi a fagiolo, il libro che ha appena pubblicato, Oliviero Bea, che si intitola Il culo e lo stivale, diciamo un po' poco radiofonico questo culo, ma esiste questa parola da varie parti nel linguaggio anche pubblico, e il sottotitolo è I peggiori anni della nostra vita, pubblicato da Chiare Lettere. Direi che effettivamente lo sono per tanti motivi, ma dice, spiega Oliviero Bea, poi lo facevo spiegare dalla sua voce in diretta, che non è soltanto appunto un termine che troviamo nel linguaggio comune, anche nella cronaca, nel linguaggio dei politici, di alcuni in particolare, ma dice proprio che l'Italia, dici, è precipitata nel cul-de-sac di un presente e di un futuro tanto nebulosi quanto atterrenti, no, Oliviero? Sì, ma questo nasce dalla, se vogliamo, nasce da una mancanza di identità che deriva da, anche e soprattutto per certi versi, da una assenza, una rimozione della memoria. Questo è un paese che dimentica in fretta, dimentica addirittura le cose che sono successe negli ultimi giorni e le ultime settimane. Figuriamoci la trasmissione delle esperienze, del sapere tra generazioni, cioè tutto ciò che arricchisce un popolo da padre e figli. Infatti i peggiori anni della nostra vita sono non tanto per noi, io ho scritto questo libro da padre, quanto per i nostri figli, per i ventenni, quei quindicenni, venticinquenni, insomma, per loro che uno parla, non per sé, credo. Senti, mi viene in mente, no, che questi giorni c'è stato il programma Quello che non ho con Saviano e Fazio, naturalmente da moltissimi accolto con grande entusiasmo, abbiamo visto Lodi, eccetera, eccetera. C'è stata anche qualche critica, anche da quelli che non sono storicamente nemici. Aldo Grasso diceva che era un programma un po' funereo, e lo stesso Beppe Severgnini, che pure apprezza entrambi, ha detto forse continuare a ricordare i drammi, le stragi in Italia, all'estero, le cose negative, non è così positivo, perché servirebbe invece a questo paese parlare un pochino più di speranza. Poi quando succedono queste cose ti sembra che non si possa parlare di speranza, no? E che bisogna per forza stare su, ricordava Saviano anche appunto l'attentato, tra pochi giorni c'è l'anniversario di Falcone, e guarda caso, anche se appunto ancora non si sa esattamente a cosa sia legato questo attentato, se sia di mafia, se sia proprio davanti a quella scuola perché si chiama Morvillo Falcone, se sia a pochi giorni dall'anniversario, non è ancora chiaro questo. Sì, però ragionare, credo che sia obbligatorio, condannando tutto, ragionare con un pizzico di razionalità sul fatto che un attentato di questo genere, il giorno prima di un voto, in una situazione confusa come quella italiana, non può essere semplicemente un atto criminale, se non per quel che riguarda chi materialmente ha messo la bomba, ma siamo sempre al discorso dei mandanti, ma chi ha interesse ad avere un paese in questo stato, cioè in uno stato come quello di cui stiamo parlando dopo una bomba e un omicidio come quello di stamattina? Questa è la prima cosa. La seconda cosa è il collegamento alla memoria, sai Roberta, perché pensi che la strage di Portella della Ginestra del primo maggio del 47, 65 anni fa, è ancora coperta dal segreto di Stato, ma in nome di Dio, ma perché? Scusa, ma viene da ridere amaramente. Ma cosa copre? Copre forse Salvatore Giuliano? Ma che Salvatore Giuliano? Copre i mafiosi? Che hanno bisogno i mafiosi di essere coperti al segreto di Stato? In un certo senso sì, ma questo già ci porta ben dentro un altro tipo di discorso. Insomma, è brutta, è una storia brutta, ed è una storia che riguarda purtroppo soprattutto le classi dirigenti di questo paese e il potere, ma riguarda anche una sorta di coma in cui questo paese in basso è caduto ormai da troppo tempo con questo consumismo su specie televisiva di quarto ordine, che adesso forse avrà una diversa rivisitazione visto che i soldi sono diminuiti, c'è la crisi e forse qualcuno comincerà a chiedersi perché cosa vale la pena di campare nella vita. Nel mio libro di questo parlo. Prima citavi Fazio e Saviano, sono merce televisiva Fazio e Saviano, si può discutere esteticamente e commercialmente se funzioni o non funzioni quella merce televisiva, se sia migliore o peggiore di altre. La novità l'hanno avuta l'anno scorso privilegiando la parola, adesso mi sembra che sia una sorta di serial a distanza di un anno, per cui si vende della merce. Saviano è diventato da un pezzo un'icona merceologica. 800 24 00 24, comincerai a sentire le voci delle ascoltatrici e degli ascoltatori. Primo Nicola da Milano. Sì. Buongiorno. Buongiorno Nicola. Buongiorno. Ho ascoltato, ho telefonato appena lei ha dato il tema della trasmissione, no? Dove è finito questo paese. Credo che il dottor Bea abbia ragione quando dice che i politici e quant'altro, però mi permetto di dire una cosa. Io credo che stiamo girando da molti molti molti anni, io ho 47 anni, intorno ai problemi e al problema sempre, cioè il problema sono i politici, il problema è la politica, ma non ci chiediamo mai le nostre responsabilità. In questo paese si parla sempre di diritti e non si parla mai di doveri, si parla di avere senza di parlare di merito e non si guardano mai i veri problemi. In questi giorni lei ha citato una serie di problematiche, di fatti gravi, piuttosto che la crisi economica, eccetera, eccetera. Se si sente parlare determinate persone, che sono le persone che ci hanno condotto, le persone che ci dovrebbero condurre in diversi ruoli, sindacato, imprenditori, piuttosto che politici, ancora adesso si ritiene che tutto quello che è successo sia un problema finanziario, cioè della finanza, delle cattive banche e quant'altro. Io credo che il problema sia molto più profondo, sia un'abitudine, un comportamento, un'attitudine che questo paese, questi paesi, mi riferisco ai paesi europei, a diversi livelli hanno avuto ed hanno, cioè noi non vogliamo evidentemente cambiare e non volendo cambiare non guardiamo le nostre responsabilità. Allora io dico, io non do colpa ai politici perché io ho 47 anni, ripeto, ho votato, voto da ormai 18, 19, 20, 25 anni, non so manco più, 30 anni. Dico che noi dobbiamo guardare al nostro e siamo noi che cambiamo la nostra vita. Cioè la politica l'abbiamo interpretata come un demandare a qualcun altro il cambiamento che invece è il cambiamento della mia famiglia, il cambiamento del mio luogo dove lavoro, il mio luogo Nicola, dove vivo. No, quello che stai dicendo è molto chiaro, è anche bello e civico. Tu in prima persona cosa diresti di fare, per esempio? Ah beh, certo, io faccio nel mio piccolo, faccio lavoro dove posso cambiare, nel senso che il mio microcosmo, io faccio, sono un manager, faccio l'amministratore delegato e quindi già la mia azienda è una piccola, come posso dire, zona dove posso cercare di cambiare. Parto da una cosa, la morale, l'etica, no? Il lavorare, il non rubare, il dover amare il proprio lavoro. Per esempio, in Italia, le dico alcune cose che si potrebbero fare, non c'è un partito politico, non c'è un movimento politico, non c'è nemmeno la Confindustria che dicono che bisogna riportare al centro del discorso l'azienda. Dico una cosa forte perché può essere letta male, ma dobbiamo leggere il modo giusto. Parliamo di crescita, parliamo di ricchezza, parliamo di welfare, parliamo di cultura, tutte cose fantastiche, ma dov'è che si crea la ricchezza? Si crea nell'azienda, se non c'è azienda non c'è ricchezza, se non c'è ricchezza non c'è cultura. E ancora prima dell'azienda le persone, direi, no Nicola? No, attenzione, no. È qui un errore fondamentale, perché abbiamo, non che siano le persone siano secondarie, ci mancherebbe altro, ma con una cultura che riporta sempre la persona e quindi il diritto della persona. Ci siamo dimenticati il diritto comune, cioè noi ragioniamo per persona e non per diritto comune. No, direi il bene collettivo, Nicola, e i diritti e doveri individuali, senz'altro. Ma allora, prendiamo l'azienda. L'azienda non è l'imprenditore. L'azienda è, a parte quello che scrive il codice civile, un organismo produttivo, organizzato di beni, ok? Uomini, donne, beni materiali, beni finanziari, l'imprenditore, il sindacato. L'azienda è il centro per creare ricchezza. È chiaro che noi dobbiamo modulare il sistema, ma ci siamo scordati proprio l'azienda e modulare il sistema. Noi abbiamo modulato il sistema verso il diritto, cioè io ho diritto al lavoro, io ho diritto al voto, io ho diritto alla pensione. No, Nicola, no, mi è chiaro il tuo ragionamento, non sono proprio completamente d'accordo con quello che dici, in parte sì, ma non completamente, non mi sembra che si sia parlato soltanto di diritti, anzi soprattutto dei più deboli, insomma, è un paese per carità questo, abbastanza salvaguardante e tutto, però non butterei tutto sul fatto che c'è stato il primato del diritto. Volevo ricordare fra le varie notizie che avevo cercato di elencare molto sinteticamente all'inizio anche che c'è stata il 17 maggio, due giorni fa, la giornata internazionale contro l'omofobia. Qualcosa si sta muovendo anche in Italia a proposito di diritti e di equità, e poi è uscito il rapporto Istat secondo il quale gli italiani sono più avanti, i cittadini sono più avanti della classe politica rispetto ai diritti delle persone, delle coppie omosessuali, alla loro tutela delle discriminazioni. Ecco, ci tenevo nel panorama generale a dare anche questa notizia. Mi chiedevo, Oliviero Bea, ha parlato molto Nicola di azienda, della classe dirigente, come tu stesso avevi detto, mi chiedevo fra le varie cose, no? Parlando della nostra classe dirigente, della classe politica, secondo te Maroni, io ho questa curiosità, no? Che quando c'è stata la serata delle scope a Bergamo, no? Di dire puliamo, facciamo pulizia, aveva detto io sono pronto a rivotare Bossi se si candida come segretario, sono sicuro della sua buona fede, ha continuato a sostenerla questa cosa della buona fede, e tra l'altro proprio, se non sbaglio, pochi giorni fa, sarà 3-4 giorni fa, ha detto bisogna ancora verificare se questa storia delle lauree, delle paghette eccetera, o siano legate a soldi pubblici o siano invece quelli che vengono dal tesseramento della Lega, dalle feste, dalle cose. Cioè Maroni può credere davvero tutto questo o cosa? Allora, colleghiamo questa tua domanda su Maroni a una parte del discorso lungo e interessante, almeno per certe cose, di Nicola, sì. E cioè la politica. No, io non credo che possa davvero ritenere in buona fede che Bossi sia in buona fede, che caschino tutti dal pero. Perché? Perché ormai è da un pezzo la politica italiana, in generale il potere in Italia, che è condizionato pesantemente dall'economia, sia quella bianca che quella nera, mafiosa negli aspetti che poi dopo vanno a finire in una certa direzione, dicevo il potere e i suoi rappresentanti ormai è intaccato, sono intaccati, e i nostri rappresentanti sono degli organismi geneticamente modificati dal potere, alla lettera degli OGM non ragionano più e da un pezzo come noi, e quindi la recita è interna al sistema politico, fra di loro usano un loro linguaggio, sono in buona fede tra virgolette, che però è una cattiva fede dal nostro punto di vista, sanno tutto perché sanno quasi tutto, e quando escono sui giornali le cose perché sono talmente mature, cioè marce, che non le possono più tenere a bada, perché è sempre la magistratura che poi fa il suo lavoro, è difficile che succeda con i giornalisti per tanti motivi, questo ci porterebbe su un'altra strada e preferisco evitarla, se no facciamo davvero come strade e autostrade pure noi con le tematiche, ecco. E quindi da questo punto di vista, rispondendo a Nicola, io non ho, in quello che dicevo prima, anche se nel mio libro ne parlo, non ho parlato di politici in senso stretto, ho detto anzi che dal basso c'è un paese in coma culturale, e laddove l'aggettivo culturale riguarda proprio il sistema di vita, quello che abbiamo in testa, nel cuore, quello che dicevo prima. Ebbene, Nicola ha detto una cosa importante, al di là della sua visione un po' particolaristica sul piano dell'azienda, perché ricorda Nicola che chi forma le persone non sono le aziende, ma le due agenzie fondamentali di formazione per chiunque sono la famiglia e la scuola, e quando la famiglia e la scuola sono disastrate, poi nell'azienda finiscono persone disastrate, quindi basta che Nicola faccia 2+2 e lo capisce sicuramente, non credo che potrebbe essere in disaccordo con me. Ma ha detto una cosa interessante Nicola, ha detto la responsabilità, e io in questo culo allo stivale parlo lungamente di questa devastazione dal punto di vista della mancanza del senso di responsabilità, della responsabilizzazione delle persone. In questo paese nessuno è più responsabile di niente, il che è atroce perché è contiguo alla mancanza di facoltà critica, alla mancanza di personalità nel senso di assunzione di responsabilità, e quindi di cose anche in termini di merito, cioè quello che è giusto e quello che non è giusto. Tutto ciò è come una slavina, è stata dimenticata. Io per esempio risalgo al secondo dopoguerra, nel secondo dopoguerra questo è un paese che si è trasformato in poco tempo, in meno di una generazione, da contadino in industriale, è stato il famoso boom dell'Italia. Ebbene, la mia tesi è che quel boom abbia acceso delle cambiali che stiamo pagando oggi, perché è stato fatto tutto troppo in fretta. Un po' pasoliniano questo tuo pensiero? È post pasoliniano, perché Pasolini ha fatto in tempo a vedere l'Italia del consumismo agli anni 70, cioè dopo la trasformazione dal contadino in industriale, con una cultura operaria che non ha fatto in tempo a sedimentarsi davvero. E poi è arrivato, perché sono scomparsi gli operai, poi è arrivato il buco del consumo, riempito dal consumo, e adesso ci ritroviamo oggi che questo consumo sta andando indietro perché ci abbiamo soldi. Quindi il buco è culturale, è un buco di identità. Sentiamo Franco all'800240024 da Milano. Grazie, buona giornata. Grazie. Saluto a te, Franco. Dottor Bea, che mi ricordo ancora tanti anni fa il programma che faceva, se non erro, Chiamate a Roma 3131. Vari ne ha fatti, vari ne fa. No, quello era veramente Radio Zorro 3131. Radio Colori, poi varie. Sì, tutte quelle cose, sì. Prego, Franco, dici. Franco? Pronto. Era così, un saluto volante. È caduto. Che è successo? Pronto, Franco? Franco? Va bene. Mi sembra, può darsi che ci sia stata un'interferenza, forse con un collegamento che tra pochi istanti dovremmo avere con un altro pianeta. A volte sapete, no? Anche già con i telefonini sulla Terra, figuriamoci anche un qualcosa di extraplanetario. Riflessioni da Marte. Osservando come sempre da quassù, da Marte, le sorti del globo terracqueo, in particolare quelle italiche. Dopo diciamo che ogni mattina ci si sveglia, c'è qualcosa di nuovo, come avete sentito, ma è parso almeno sino al tardo pomeriggio di ieri che si fosse trovato finalmente il modo di arginare la crisi attanagliante. Ecco la trovata geniale. Una bella tassa sui trasportatori di peli e pulci, ovvero cani e gatti, intesi in effetti un po' alla stregua di auto e barche di lusso. Quelle trasportano umani facoltosi e quadrupedi trasportano insetti perniciosi. Ma laddove nemmeno l'inno nazionale, il richiamo all'unità peninsulare, smuovono il popolo smaliziato e disilluso, poté suscitare l'unitaria sollevazione popolare la sola idea di vedere zampe e musi amati trattati alla stregua di vili manufatti. Era solo su via, si difende il legislatore proponente, una volta appurata la furente contrarietà generale, era solo, dice, una tassa di scopo. Insomma, un modo come un altro per riconoscere che era... È una cagata pazzesca! Ed ecco come sentite il repentino, l'entusiasta sollievo popolare. Via, un qui pro quo lestamente archiviato, ma altri qui pro quo hanno caratterizzato questa settimana, accomunando da una parte all'altra dell'oceano una fetta e una paghetta. E vado a spiegare. Nella penisola italica qualcuno ha pensato che una paghetta congrua per due figli cresciutelli in tempi di crisi, in cui effettivamente bisogna investire sui giovani, che la paghetta congrua dovesse ammontare a 5.000 euro mensili, gentilmente devoluti dai contribuenti a loro effettiva insaputa dei contribuenti. Mentre dall'altra parte dell'oceano, esattamente nel Parlamento americano, si tenta in questi giorni di far passare la pizza per una verdura, per aggirare le prescrizioni dietetiche imposte nelle mense scolastiche. Ma la differenza tra fetta e paghetta è che se passa che la pizza è parente della carota, ingrassa la gente comune, mentre se passa che il pubblico finanziamento della paghetta è cosa giusta e netta, la cintura della gente comune si fa ancora più stretta. Che il povero sia in fondo un gran signore, che il servo stia assai meglio del padrone, che le persone anziane stian benone, che i giovani abbiano sempre un'occasione. Facciamo finta che tutto va bene, tutto va bene. Facciamo finta che tutto va bene. E ritorniamo con i piedi per terra, la realtà cruda di cui avete sentito in particolare alcune notizie che riguardano la giornata di oggi, questo attentato a Brindisi davanti a una scuola in cui è morta una ragazza di 16 anni e un'altra in grave condizione, ci sono almeno altri 5 feriti. Siamo sempre con Oliviero Bea e Franco, l'abbiamo recuperato da Milano all'800240024. Franco? Pronto, grazie ancora che mi avete richiamato. Prego, Franco. Mi fa piacere, sì. E onore alla trasmissione che sto ascoltando, Roberta. Grazie, Franco. Dunque, stavo dicendo prima, mi associo a questo lutto italiano perché è un lutto italiano, però non vedendo che qualcuno va a mettere queste bombole, non sanno se sono piccole, grandi, grosse, tre scoppiate, nessuno vede niente. Beh, però niente, il mio discorso è quello che si parlava prima della Lega, che dicevano 20 anni facciamo, adesso ce n'è un altro che veramente mi fa piangere, Grillo, mi fa piangere. Cioè, attaccare la politica messa com'è, ma non si risolve, non attaccare, dimostra, vai là a Roma, siediti, facciamo, cosa vuol dire? Anch'io mi posso mettere in piazza e continuare a attaccare, sono un comico, attacco. Beh Franco, ci sono i suoi candidati in giro, comunque, insomma, chi ritiene di apprezzarli, no? Sì, candidati, sì, ma però quello che sta dicendo Grillo mi fa piangere, è un comico che io ho sempre rispettato, ma politicamente mi fa piangere, perché non vorrei che sia come la Lega Lombarda di 20 anni fa. Sei un disilluso, insomma, hai paura di questo? Sì. Che cosa che, cioè, meno, proprio... che cosa che meno ti piace di Grillo? Poi vuoi chiedere anche a Oliviero Bea che cosa gli piace, ecco, o non gli piace. Quello che meno mi piace di Grillo, che non si fa intervistare, scappa come un coniglio. Ma perché lui dice che la televisione in realtà poi ti manipola, poi ti rende uguale agli altri, no, aveva vietato anche... manipola lui il popolo italiano. E, avendo i soldi mi posso anch'io mettere in piazza e fare quello che ho voluto. L'ha fatto anche Bossi con i soldi dietro, ha dato 5.000 euro ai suoi figli dicendo che non era vero. Io prendo 1.200 euro di stipendio, devo mantenere due figli? E sentiamo queste robe qua che gli danno 5.000 euro. Passiamo, la Roma ladrona, la Lega ladrona, sono un leghista, ero là a Bergamo. Tu sei un leghista, Franco? Ero un leghista, ero là a Bergamo con le scope, sono scappato, mi hanno fatto venire il volto a stomaco. Franco, ti ringrazio, adesso tra poco abbiamo un'altra pausa, intanto sto guardando dalle agenzie un po' tutti gli esponenti politici che naturalmente intervengono su questo attentato, che ancora le cui origini sono e obiettivi ancora da chiarire, ci sono da il PD, naturalmente PDL, Lega, Italia dei Valori, c'è Manganelli capo della polizia, ci sono le associazioni delle imprese che intervengono, naturalmente ognuno in questo momento condanna duramente questo attentato, è naturalmente anche inevitabile, ci sembra più che normale. Oliviero Bea, visto che l'ultimo ascoltatore parlava in modo piuttosto accalorato di Grillo, brevemente che ne pensi? Molto schematicamente, perché Franco ha fatto un po' di pasticci nel mettere insieme Grillo, la Lega, la scopa, Marozzo, vabbè. Dunque, la domanda è: chi ci ha condotto in questo baratro? Grillo? No, è difficilmente contestabile questa affermazione, non è stato Grillo, sono stati gli altri. Allora, io accetto di parlare di Grillo, delle sue lacune, delle sue eventuali colpe, dei suoi difetti, solo un momento dopo che a reti unificate, chi ci ha portato in questo baratro, a reti televisive unificate, si scuserà con il paese. Dice, ma questo è un modo di ragionare cattolico, da paese cattolico. Sei un sognatore. Non sono un sognatore, allora a questo punto mi tengo Grillo. Cioè, finché questi si comportano così, Grillo tutta la vita, per forza. E di ragionare sul fatto che anche la Lega una volta, a parte le enormi differenze fra i due, adesso non abbiamo tempo di dettagliarle, ma insomma, comunque il processo si fa alle intenzioni, mentre nel caso della Lega forse, e della classe politica, forse il processo si fa ai reati. Luigi da Pisa. Complimenti ad ogni sogno. Io vorrei dire questo, sì, che quando guardo Grillo per ora tutta la vita, perché è rimasta quasi l'unica speranza dopo tutte le illusioni della politica di adesso. Uno. Due, per quanto riguarda la Lega, mi sa che nelle sue contraddizioni si sta avvitando su se stessa in vari momenti di cercare di salvataggi inutili, che secondo me chi più ama è più si sente tradito, e in questo momento l'elettorato della Lega si sente molto tradito. Pensiamo di sì. Poi, se mi permette, vorrei parlare di quello che era il concetto per cui ho telefonato. Ecco. Questo governo sta facendo passare una legge che colpirebbe particolarmente le persone disabili con accompagnamento, quindi stiamo parlando di persone con grave handicap e le loro famiglie che gli danno una mano. Stanno facendo passare la teoria per cui l'accompagnamento fa reddito. L'accompagnamento quindi fa reddito? Fa reddito, farebbe reddito. Cioè non sarebbe più un supporto alla famiglia, ma farebbe reddito per la famiglia. Quindi da tassare? Quindi da tassare e da considerare nella certificazione ISEE, quindi aggiungendo anche questo reddito si perderebbero alcuni diritti che oggi si hanno. Non c'è problema, mercoledì ci sarà una grande manifestazione a Roma dove tutti i disabili possono andare. E a questo punto mi faccio una domanda un po' ironica, perché nel mondo bisogna anche saper sorridere, no? Sarà giusto andare con il pullman riservativo ai disabili, o questo governo sarà pronto ad attrezzare un'istituzione militare per la soppressione handicap e invalidi? Ora, questa era solo una battuta un po' cattivella, no? Diciamo. Amara, diciamo, Luigi. Amara, però faceva parte anche dei film di Fantozzi, non so se vi ricordate, visto che prima avete fatto sentire Fantozzi. Sì. Dove c'era il pullman dei pensionati che dovevano essere soppressi in vari modi. Sì, ricordo bene, Luigi. Quindi, però, quello che voglio dire io, cioè, non ci voleva un governo tecnico per fare queste cose qui. Io ho supportato la venuta di Monti in tante cose, perché secondo me, da dopo anni di amara politica, ci voleva qualcuno che sapesse gestire questa nazione in un modo serio. Ma la cosa che ancora mi amareggia è che a domande delle associazioni non danno risposte, cioè questi non rispondono se questa cosa è vera o non è vera. Infatti io purtroppo non te lo so dire, Luigi, ma intanto tu ne hai parlato, e se fosse così intanto si comincia a prenderne coscienza. Stavo leggendo anche un'agenzia relativa a una dichiarazione di Nichi Vendola, come sapete presidente della regione Puglia, Brindisi in Puglia, dove è avvenuto l'attentato. Dice: ho avuto una lunga telefonata col presidente del consiglio Mario Monti, che mi ha chiamato dagli Stati Uniti e mi ha pregato di comunicare alla comunità pugliese, alla città di Brindisi, la vicinanza del governo, il dolore, lo sgomento e la rabbia. Vi dicevo che, insomma, naturalmente ci sono tutta una serie di dichiarazioni su questo attentato. E, Loretta da Napoli. Buonasera. Buonasera. Mi unisco ovviamente al cordoglio, no? Abbiamo saputo, insomma, quello che è successo, e non credo che ci siano altre parole per esprimere la rabbia, l'impotenza, insomma, rispetto a quello che è accaduto. Comunque mi unisco, insomma, alle persone che come me davvero sono esterrefatte da questa cosa. Volevo cambiare un attimo un argomento che può sembrare più leggero, ma alla fine comunque, insomma, potrebbe avere col tempo la sua rilevanza. Per la seconda volta vorrebbero far passare la legge quanto riguarda la tassa su animali domestici. Ah, okay, sì. Quindi il possessore di animali domestici dovrà pagare una tassa. Questa tassa dovrà essere, diciamo, soldi di questa tassa utilizzati per combattere il randagismo. Loretta, ma ti fermo subito, perché in realtà, come si diceva da Marte o la marziana, questa cosa ieri ha creato moltissimo scompiglio. Era una proposta di legge, ma diciamo che per tutta la cittadinanza e per molti esponenti politici, insomma, è stato un detonatore. Ecco, ci sono state moltissime polemiche, talmente tante che il proponente questa legge l'ha immediatamente ritirata, dicendo che era una legge di scopo. Vabbè, ho visto che non funziona, d'accordo, facciamo finta di niente, l'ha ritirata. Quindi non ti preoccupare, Loretta, almeno per il momento. Ma non perché, allora, nel senso, questa è la seconda volta appunto che la propongo, succede il finimondo, ovviamente la ritirano. Non si potrebbe scatenare la stessa cosa per altre leggi che comunque noi non riteniamo opportune? Sono d'accordo. Loretta, mi sembra una buona proposta, una buona argomentazione. Vediamo cosa ne pensa Oliviero Bea. Grazie, Loretta. Grazie, buona trasmissione, complimenti. grazie a te. Penso che abbia ragione. Penso che, per esempio, sia il discorso sui disabili, sia quello sugli animali, sia pure naturalmente con le diversità ovvie, faccia parte, dal punto di vista del governo e del Parlamento, faccia parte di una mentalità assolutamente da cambiare, che ci riporta al discorso di inizio. Questo paese soffre solo economicamente di spread, di mercati che calano e via dicendo, oppure soffre più in generale nella sua vita di tutti i giorni, del singolo e della collettività? La mia risposta, libra la mano, è naturalmente la seconda. Per esempio, da che cosa si può ripartire per ricostruire il paese? Da dove? Secondo me dall'essenzialità. Bisogna ricominciare a distinguere fra necessario e superfluo, distinzione che ormai si è persa da un pezzo nella bambagia del consumo e del consumismo. Bisogna ricominciare a discutere di quello, di discutere dell'essenzialità e mettere, dal mio punto di vista, come primo gradino, primo mattone per ricostruire la salute. Direte, grazie, ci voleva Oliviero Bea parlando di salute. L'importante è la salute, come si dice. La salute intanto rimanda a quell'importante della salute che ci siamo dimenticati, poi rimanda a un'idea di salute che prescinda almeno in parte dal look, cioè dalla non edonistica, insomma. Sì, diciamo, non questa estetica da riporto in sedicesimo, per cui alla gente che si incontra dice quanto stai bene, hai un bel look, magari quella sta malissimo di salute e tutto il resto. Quindi niente, ritornare all'essenziale anche in quello. Pensare a quanto vuol dire per il welfare la spesa per la salute pubblica, e quindi ragionare in termini di denaro. Come sai, l'85% circa dei budget regionali se ne va per la salute privata, le cliniche private, le cure private sono oggetto spessissimo di scandalo in simbiosi con quelle pubbliche, inutile faccia l'elenco degli scandali, insomma. E poi questo atteggiamento probabilmente, se rimettessero al primo posto la salute, ci permetterebbe di considerare per esempio chi la salute non ce l'ha. I portatori di handicap ce l'hanno di meno, almeno da un certo punto di vista, e ci permettono di arricchirci nel rapporto con loro, che è decisivo. Avere un rapporto diverso con chi ha meno salute ci permette di crescere nei rapporti con gli altri, per esempio i diversi che vanno sotto la voce immigrati e tutto il resto. Quindi insomma è un cambiamento culturale, una rivoluzione culturale. Senza questa siamo destinati ad affondare, anche se Monti riesce a mettere le pezze a colore, ammesso in un concesso che ci riesca. Tra l'altro leggevo adesso un'agenzia di pochi istanti fa, che viene dal G8 di Camp David negli Stati Uniti, l'imperativo è creare crescita e posti di lavoro, quanto contenuto secondo le prime indiscrezioni nella bozza delle conclusioni del G8, che è un po' l'acqua calda, insomma. Speriamo che però si facciano delle cose concrete per questa crescita e posti di lavoro. Prima della prossima pausa, per chi sta viaggiando, c'è Mauro da Belluno? Buongiorno. Mauro, l'800240024. Buongiorno. Buongiorno. Sono Mauro da Belluno, niente, chiamavo per dire due cose come la penso. Sì. Però sono una persona un po' ignorante in molto, però vabbè. Ma Mauro, allora, dipende dai punti di vista cosa significa ignorante. Sì. Prego. Comunque, guarda, allora, farei una legge io, no? Farei una legge se fossi giù dello Stato. Sarebbe un po', è impossibile, ma però questa è una cosa che dovrebbe essere fatta. Cioè che qualsiasi paga, dipendente pubblico, almeno per 3-4 anni, finché non finisce questa crisi enorme, non dovrebbe essere più di 8 volte della minor paga che c'è. Cioè se una persona normale, lo spazzino per la strada, prende 1000 euro, sì, il dirigente, il capo di tutti i dirigenti non può più prendere più di 8000 euro. Se ne vuol prendere 16.000, quello giù sotto ne dovrebbe prendere 2.000 al minimo. Le pensioni, lo stesso discorso, pensioni invece che di 8 volte farei 4 volte, perché tutte le persone hanno un livello sociale, per esempio lo spazzino, l'imbianchino, quello che fa sulle case, a livello sociale alla fine di tutto serve, non è che solo il direttore che paga, chissà che si hanno le paghe enormi adesso. Siamo molto d'accordo, Mauro. Senti, siccome adesso la pausa, volevo brevissimamente sentire proprio cosa ne pensa dei tuoi concetti espressi, Mauro. Oliviero Bea, molto sinteticamente, sono proposte da ignorante o proposte di buonsenso e di equità? Di buonsenso e di equità? Sono tanto sensate, tanto giuste, che se le dice pubblicamente, oltre che a Radio 24, fa un po' l'arrestano. Sempre Oliviero Bea, scrittore, giornalista, autore teatrale, conduttore radiofonico e televisivo, opinionista estemporaneo di oggi, col suo ultimo libro Il culo e lo stivale, i peggiori anni della nostra vita, con prefazione tra l'altro di Battiato. Mentre si continuano ad alternare le dichiarazioni sull'attentato di Brindisi, e si parla anche di questa povera ragazza di 16 anni che è stata uccisa da questa esplosione e dei loro genitori, visto che era figlia unica, quindi di una disperazione ulteriore, dicevo, le varie dichiarazioni che si susseguono, mentre si fa sempre più intricata questa storia Orlandi De Pedis, ci sono le analisi della polizia scientifica che stanno concentrando sui frammenti di ossa ritrovate nella chiesa di Santa Pollinare, e stanno facendo dei test non solo per vedere se c'è il DNA di Emanuela Orlandi, ma anche di Mirella Gregori, che era un'altra giovane scomparsa sempre nel 1983. Questo paese, a volte quando guardo il planisfero, la piantina del mondo, vedo l'Italia che è piccolissima, eppure quante cose succedono in questo piccolissimo paese, che pure è stato il centro dell'impero romano, dell'arte rinascimentale, la civiltà rinascimentale. Poi non lo so, non mi so dare spiegazioni. C'è però, adesso chiediamo, vediamo quale notizia in particolare ha colpito il nostro Don Severino di Potenza. Don Severino. Ciao, buongiorno, buon pomeriggio. Dunque, una piccola riflessione, che è questa. Mi ha colpito il ritorno della bufala del terrorismo. In che senso? Nel senso che negli anni 70, quando iniziò il terrorismo, quando in Italia c'era un cambiamento, quando la gente incominciava ad essere stanca. Guarda caso, la gente incomincia a ribellarsi, chi ci rimette? Una ragazza. È il primo attentato. Probabilmente vedremo i politici piangere ai funerali di Stato, ma sono loro i mandanti. Quindi attenzione a questa bufala del terrorismo. Quando i popoli incominciano a arrabbiarsi, a ribellarsi, i potenti hanno paura di perdere la poltrona e hanno i loro mandanti e buttano la bufala del terrorismo. Grazie Don Severino, questa è la sua lettura molto particolare di Don Severino, poi si può essere d'accordo o meno, però è una cosa sulla quale senz'altro meditare. Paolo da Roma, all'800 24 00 24. Buongiorno. Buongiorno Paolo. Sì, sono Paolo, Dario Freddo veramente chiamo. Dario Freddo. A parte che sono un attimo così sotto shock per quello che ha detto Don Severino, perché io più o meno pensavo una cosa simile, ma così la sua franchezza e proprio essere così diretti mi ha scioccato pure a me. Comunque io volevo dire un'altra cosa, guardi, sì. Forse alzare un po' più l'ottica di questi ragionamenti che state facendo voi. Cioè io volevo fare, ma molto velocemente, un ragionamento sulla democrazia, no? Cioè io cittadino Paolo, della Repubblica Italiana... Paolo, mi devi perdonare, ma io ho ancora pochissimi minuti, riesci a sintetizzare? Ah, ma velocemente, sì. Allora, guardi, in 10 parole praticamente, diciamo che praticamente la democrazia fino ad oggi è stata rappresentativa, no? Perché ovviamente non tutti potevano andare in Parlamento a votare. Da 10 anni, grazie alla tecnologia, il mondo ha la possibilità di avere una democrazia diretta dove ognuno di noi attraverso gli strumenti, ma anche semplici SMS, possiamo votare, tramite il computer possiamo partecipare e controllare. Per cui, secondo me, in questo momento, e ce lo dimostra anche la primavera araba, l'Italia può di nuovo essere, perché secondo me è una delle migliori nazioni al mondo l'Italia, con i migliori cervelli al mondo, con tutte le capacità che noi abbiamo sempre dimostrato da 3.000 anni a questa parte. Paolo, devo, perdonami, chiudere, già si capiva un po' il tuo pensiero, e dai anche un messaggio di speranza. C'è Paolo Crepè, mi dicono da Roma, ma lo psicologo, lo psichiatra? Sono io, buongiorno. Buongiorno Paolo, abbiamo proprio sai, un minuto purtroppo. No, era semplicemente, no, intanto stavo seguendo, quando guido sento sempre la vostra radio. Intanto volevo salutare anche Oliviero. Ciao Paolo. Tanto tempo che non ci vediamo. Lo sconcerto quando stamattina ho sentito quelle povere ragazze, l'idea che io sono abbastanza vecchio per ricordarmi le bombe, le morto, le bombe, le stragi, le urla, e ci risiamo un'altra volta. Allora non so se siamo così intelligenti. L'ascoltatore prima diceva che abbiamo del talento, non lo so, forse quello vero è fuggito all'estero, quello che è rimasto in questo paese, lo dico con grande amarezza, anch'io come penso ai figli, a mia figlia, alla generazione dei giovani, io spero che vada da qualche altra parte, perché è angosciante, come avere un paziente che speri che finalmente sta meglio e poi c'ha una ricaduta terribile. Questo è il nostro paese e non lo so, io credo che bisogna ricominciare dall'educazione. Bisogna dire agli italiani basta con queste università finte, con queste preparazioni finte, con questi esami mai dati. Con Paolo, milioni... Paolo, ascoltami, sì. Siccome mi fa piacere che tu ascolti, non ci sono più le mezze stagioni, tutti i sabati immagino, dalle 14 alle 15, se vuoi... Anche il venerdì, lunedì. Se vuoi Paolo, ti invito come opinionista estemporaneo alla prossima puntata. Va bene, se lasci il numero... Mi fa solo piacere, grazie. Lasciato la redazione. Benissimo. Grazie a voi, buona giornata. Grazie Paolo, non ho i plastici, volevo dire, di Vespa, però mi pare una trasmissione quantomeno estremamente degna. Oliviero Bea, in questi 60 secondi che ci rimangono, io volevo chiederti se tu avevi un po' di spazio in casa, perché ho visto che la regione Campania ha messo all'asta 30 muflone, non so se ti può interessare, non c'è la tassa sul muflone se lo prendi. No, un paio di muflone volentieri, al volo. Sì, nei 23 secondi. Su quello che ha detto Crepè, allora dice ci richiamo, attenzione Paolo, attenzione ascoltatori, forse la dizione corretta è qualcuno vuole che noi ci si risia, ci risiamo, che è un'altra cosa, perché le bombe non nascono a caso, qualcuno ce le mette, ma qualcuno ordina di metterle. Certo, Oliviero, ci stanno sfumando. La paura, vabbè, insomma, diciamo che io scrivo di queste cose contro la paura. Grazie Oliviero Bea, ricordate il suo libro Il culo e lo stivale, ricordate c'è la pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, e da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti, a tutti.